Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. When you're smiling. Caro Oscar, Eccoci qua dallo stadio dell'Estero in diretta praticamente. No, non proprio in diretta. È l'inno dell'Estero. È l'inno di Sarranieri. Pensa un po' che meraviglia. Come se l'Italia vincesse il Carpi, non lo so, lo sai tu più di me, ma più o meno, no? No, più o meno è così. Ma è bello, dai, celebrare una vittoria. Nessuno di noi è tifoso dell'Ester, ma Claudio Ranieri, italiano, ha portato dopo 132 anni di storia. Ma è una meraviglia. Giocatori che venivano scartati indicando loro un avvenire in pizzeria, gente che non veniva presa nei tornei cadetti. Cioè, a leggere le storie è una fantastica prova che nel calcio, Premier League, stiamo parlando del Tempio, può vincere passione, impegno, denari, una roba sembra impossibile a dirlo in Italia. Ma sì, no? Ma è come se vincesse, come hai detto tu, il Carpi, il Milan, è veramente... fare troppo il penitente. Ah, ti faccio sorridere, poi ci dici santi, caro Oscar. Ma sai che a Roma sono andati in giro. Pensa che oggi è l'anniversario della nascita di Massimo Ranieri. Quando io ho detto Ranieri, ho detto: ma è anche il compleanno di Ranieri. Poi era Massimo Ranieri. Sai che sono andati a Roma a chiedere come si pronuncia Leicester. Senti un attimo. Grande che l'avevo detto, Leicester. Leicester. Leicester. Leicester. Leicester. Leicester. Siamo a roba là. Leicester. Mi sembra Dai, però comunque senti, io poi trovo fantastico che lui aveva detto vado dalla mamma, capisci? Sì, era in volo Claudio Ranieri. L'Italia allo stato puro, come vogliamo dire. Esatto. Voglio dire, anche senza albagia, cioè è stato capace fino all'ultima domenica di trasmettere l'idea: ma non so se ce la facciamo, vediamo. Ecco, quando i punti iniziavano ad essere 7, lui era sempre lì che dice: dai, straordinario. Dai, comunque, non parleremo di calcio, ma l'omaggio era doveroso. Ma sì, penso che a molti tifosi questa idea riconcili dopo tante amarezze. Cioè, fa piacere l'idea che ce la si può fare con la passione. Dai, esatto. Insomma, non c'è solo la Juve, dai. Va bene. Lo sai che la Cassazione ha deciso che si può rubare se si ha fame. È vero. A questa sentenza vivo entusiasmo tra i partiti qui a Roma. Stamattina ho visto subito che le sedie dei partiti dicevano: si può, per fame, si può mangiare. Dici santi, va, che è meglio, che poi dopo ne parliamo. Allora, oggi 3 maggio, San Filippo Giacomo, quindi questi sì, finalmente un po' di apostoli che conosciamo e così via. Ma tra i tanti nomi di oggi, Evenzio, Ansfridio, Conlaedo, conoscete un Conlaedo? Se c'è, si faccia vivo. Pellegrino, Teodosio, Viola e Antonina. Questi sono i santi di oggi. Auguri a Dario Vergassola, che io amo molto, siamo anche amici, che è nato oggi. Nel 1979 oggi la Thatcher veniva ufficialmente insediata come primo ministro, per me data storica. E oggi, secondo l'UNESCO, è la giornata mondiale della libertà di stampa. Oggi è il compleanno anche del mio amico Emanuele Lele. Vedi? Così. Auguri. Per carità di Dio. Viva la mamma di Ranieri. Viva la mamma di Ranieri. Allora, 800 24 00 24, insomma, questa sentenza che ho letto anche nella segna stampa, tutti ne hanno parlato, la Cassazione per un si può dire barbone o è troppo... a te piace il termine senza tetto? Usiamo il termine senza tetto. Io c'ho la barba, Senza tetto, che è stato pizzicato con 4 euro euro, 7 centesimi di valore, due Wurster e un pezzo di formaggio, fino alla Cassazione. No, il problema era che l'aveva preso in un supermercato a Genova. Tu capisci che Genova sono un po' attaccati ai centesimi, quindi. No, però la prima domanda è: ma davvero bisogna arrivare fino alla Cassazione? Per, immagina quanti anni, no, per arrivare fino alla Cassazione. Questo, cioè, dà l'idea del sistema giudiziario italiano, se posso dire, perché il giudice inflessibile che di fronte a questo applica pene detentive. Vabbè. E comunque hanno stabilito i massimi giudici che si può per fame rubare, di fatto, cioè è stato assolto, a parte che 4 euro 7 centesimi, anche se era recidivo, e questo va detto. Però ci si è divisi, Oscar, perché guarda che anche Cobolli Gigli, dice, Fede Distribuzione, dice, beh, ma insomma, però è pur sempre un... ha tolto una proprietà, insomma, non... Non si può dire. Io posso dire, io figuriamoci, io difendo il diritto di proprietà insieme al diritto alla vita e alla libertà, sono i tre diritti naturali dell'uomo, prendendo il diritto positivo. Però stiamo parlando di una cosa: se dopo tanto tempo ancora la lettura dei Miserabili, Jean Valjean, non ci ha insegnato che non si può condannare la gente se ruba davvero per fame, non lo so che cosa dobbiamo pensare dell'intera rivoluzione della civiltà occidentale. Allora, io credo che nei supermercati i danni vengano portati, e questo sì è vero, ma da chi taccheggia sistematicamente, non da chi davvero può fare 4 euro di danni perché ha fame. Poi magari mi sbaglio, però questa è la mia opinione. No, certo, però il messaggio, dicono, può essere un messaggio negativo. Addirittura mi ha colpito anche... No, il problema è che Sposetti, l'ex tesoriere del PD, non capisca fischi per fiaschi. Va bene, non ti seguirò su questa cosa. No, vedo. Mi ha colpito che nel commentare questa sentenza Massimo Gramellini sulla Stampa ha detto: questa è l'anticipazione del reddito di cittadinanza. Ma quasi a ricordare che in un paese civile nemmeno il peggiore degli uomini può morire di fame. No, perché oggi ne parleremo in qualche modo, sì, di una, certo, cosa simile, del reddito di cittadinanza. Però non lo so, non ti piace questo accostamento, no? Non è... No, perché in buona sostanza distinguo nettamente, cosa vuol dire? Un conto è la necessità assoluta di chi si trova senza tetto, senza tipo di reddito, cioè, altro conto è dire ci pensa lo Stato. E comunque è vero, questo sottolineiamolo, che noi non abbiamo uno strumento universale di integrazione al minimo reddito che non sia la pensione minima. Quindi questo è vero. Di qui a dire che rubare per fame uguale reddito di cittadinanza che risolve, ecco, io ci starei un po' più cauto. Non ti piace. Comunque su questo, se volete intervenire, chiamateci, anche del reddito poi di cittadinanza parliamo. Devo dire che però c'è un'altra cosa che sulla Stampa mi ha colpito, caro Oscar. Tu oggi sei a Roma, e lì a Roma... Come in bicicletta ti ha colpito, sembra la Julia Roberts, hai visto? No, non è che mi ha colpito la Raggi in bicicletta. Credevo lei. No, non mi ha colpito la Raggi in bicicletta, ma racconta la Stampa che oggi dovrebbe uscire su Micromega una intervista in cui Virginia Raggi dice testuale: se divento sindaco di Roma propongo di non pagare il debito di Roma, 14 miliardi, andare dalle banche, dice, o ce lo ristrutturate o ribaltiamo il tavolo. E guarda che questo è forte. Allora, primo, assolutamente, io non sono molto d'accordo. Però, secondo, credo che sia una posizione molto popolare. Terzo, Roma ha avuto questo grande regalo all'insula giunta Alemanno, governo Berlusconi, 18 miliardi non all'epoca di gestione separata commissariale, se lo sognano le altre grandi città, questo aiuto. E sono ancora quasi 14, un po' meno di 14, sono ancora tanti. La gestione commissariale, Silvia Scozzese, è quella che cacciò Marino da assessore perché è troppo rigorosa, ha detto: guardate che dall'anno prossimo non si producono più i flussi di cassa annuali per continuare a diminuirlo. Quindi diventa un problema. Su un punto, secondo me, la Raggi ha ragione. Io me ne sono un po' occupato nel tempo, più volte scritto. Molte delle voci del debito, non solo i mutui, i tassi che si pagano alle banche, eccetera, eccetera, non sono molto chiare. Perché lei, prima di arrivare al punto di dire non pago, dice: io prima voglio capire benissimo come stanno le cose. Ecco, anch'io, se fossi eletto sindaco, per prima cosa, invece di pagare, basta. Ricordiamo tutti in ascolto che la rata di mezzo miliardo la paghiamo ogni anno, metà noi e metà i romani, però anche metà tutti noi. Però anch'io, devo dire la verità, chiederei di capire molte delle cose di quel debito. Ecco. Però sì, guarda che dire non paghiamo a far default. Esatto, no? Anche perché voglio dire, il messaggio politico è molto forte, ma anche per altri amministratori, anche per chi un domani si vuole occupare della cosa pubblica. Ed è anche un messaggio politico, forse, a dire il timore del 5 Stelle è: se dovessimo vincere lì, cosa succede? Che poi dallo Stato, no, dallo Stato al governo centrale ci abbandonano con il debito, no? Sai che c'è questa polemica, allora noi diciamo non lo paghiamo. Questo è solo un piccolo avviso di che cosa, insomma, il disastro che aspetta dal punto di vista economico-finanziario finanziare il prossimo sindaco di Roma, chiunque sia, è difficile da descrivere per quanto è incredibile. È come andare veramente agli 8000 metri senza avere esperienza, senza ossigeno e senza chiodi, ma a mani nude. Cioè, i conti fanno molta paura. Ecco. Sì. Quindi la Raggi è la prima in campagna elettorale, adesso non la sto difendendo, ma per dire che entra nel merito di un problema che gli altri candidati sindaci, diciamo, Giachetti, Meloni, fino a questo momento evitano, fanno finta di non parlare del fatto che quella città non ha gestibilità di bilancio attualmente. Ho capito, però Oscar, tu stesso dici, per come sei, per come la tua formazione economica, insomma, dire non paghiamo il debito, no, non è una cosa, sembra un incentivo, continuiamo a far debiti, tanto poi non li paghiamo. Poi così. Un po' è così. Rischia di apparire così, certo. Perché poi... l'idea, come sempre, è che arriva il sindaco di un paese e dice: quelli che hanno fatto debito non eravamo noi. In questo caso è vero, però. Sì, certo che non eravate, non erano loro. No, nel senso che loro non sono il governo di Roma. Quei debiti li ha fatti sia la destra che la sinistra, alternate a Roma, quei 18 miliardi oggi 14. Loro non c'erano. Però detto questo, i debiti però... si possono ricontrattare? Sì, ma si pagano. Ecco, cioè, anche perché poi, sennò, bisogna pensare sempre che la questione sia una questione che la cosa pubblica sia della persona pro tempore che la gestisce. Cioè, è vero che non c'erano loro e non hanno fatto loro il debito di Roma, però è della città di Roma, non so come dire, e quindi il sindaco se ne deve occupare in quanto primo cittadino. Non assolutamente sì. Comunque ci chiama Roberto da piacere, vedi che scopriamo che siamo rigorosi, bisogna, ci vuole rigore. Oggi posso dire una cosa, questi tempi. Oggi mi ha molto colpito il Corriere della Sera, che anche lui si unisce oramai al patriottismo dei giornali che dicono che è tutta colpa dei tedeschi, e Federico Fubini, una persona che io stimo tantissimo, un giornalista, e per aizzare i lettori dice che, ma vedete, le banche italiane, perché ieri le banche italiane è successo che la Popolare di Vicenza non è stata quotata, eccetera eccetera, dice mentre invece in Germania per l'ennesima volta l'Europa gli concede il salvataggio pubblico della HSH Bank. Allora, se il Corriere della Sera spiega ai lettori, per aizzarli, che viene salvata una banca tedesca, fosse vero, ora pensa che quel salvataggio è stato concesso nel 2011, siamo nel 2016, all'epoca le regole erano diverse. Come può il Corriere della Sera e la Giornata Mondiale dell'Informazione dire ai lettori che viene salvata oggi, quando non si può, e infatti non è stata salvata oggi, però dice ai lettori, vedete, salvano una grande banca tedesca, l'hanno deciso 5 anni fa quando le regole erano diverse. Scusa se faccio questo inciso, però dire che noi per primi dobbiamo sempre sforzarci di essere corretti. È la notizia di apertura anche per molti giornali, questa è la Popolare di Vicenza. Intanto ci chiama Roberto da Massa. Buongiorno Roberto, eccoci. Buongiorno e saluti a tutti, grazie per avermi chiamato. A lei. Volevo intervenire sulla sentenza della Cassazione che ha assolto il clochard, sì, e provare a usare l'arma del paradosso, giusto o ingiusto. Beh, la Cassazione è stata ingiusta, se ha fatto quello che ha fatto il clochard per un bisogno assoluto di fame, e avrebbe guadagnato 6 mesi di galera, perché quella era l'accusa, la sentenza richiesta, per 6 mesi avrebbe risolto i suoi problemi di vita e alloggio, e invece l'ha, tra virgolette, buttato fuori, cioè usando l'arma del paradosso gli ha causato un po' di difficoltà, dice. Gli ha causato difficoltà, il problema è quando le sentenze cercano di essere giuste, sì, e non giuridiche. Ma guardi Roberto, tra l'altro, caro Oscar, guarda che molti sono anche critici a dire, ma insomma, si va dalla mensa dei poveri, può andare alla Caritas, può andare a tutte queste opere che aiutano e danno da mangiare anche, invece che andare a rubare in un supermercato. Capisco che poi ti pare che adesso sembra quasi che io e te stiamo difendendo il diritto a rubare. Scusate cari ascoltatori, i giudici, posso fare un paragone volutamente, un dito nell'occhio, come moltissimi dei nostri ascoltatori, la stragrande maggioranza, invocano dei giudici, e li capisco, che sappiano giudicare, per esempio in caso di legittima difesa, l'impulsività di chi, vedendosi un ladro in casa, avendo i figli in casa, eccetera, eccetera, reagisce. Il giudice deve misurare nella proporzionatezza l'impulsività istantanea di un gesto di legittima difesa, e questo lo sappiamo, che i nostri ascoltatori, a stragrande maggioranza, la pensano così, no? Vogliono norme più estensive per la legittima difesa. Allo stesso modo la giustizia deve sapere valutare anche l'impulsività di un atto dovuto alla fame. Tutto qui, non si tratta di dire rubare è lecito, però faccio apposta questo paragone perché so che molti dei nostri ascoltatori la pensano quelli sulla legittima difesa. Idem, l'impulso di fame, in questo caso il giudice secondo me doveva valutarlo in primo grado. Ecco. Ci chiama Stefano dalla provincia di Roma, buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti. Io la penso così, cioè secondo me il principio va mantenuto, anche se il furto è di lieve entità, poi si trattava in questo caso di una persona recidiva, quindi diciamo che un po' aveva il vizio. Io penso che questo signore, se avesse avuto fame e così al momento poteva chiedere anche al personale del supermercato. Nelle grandi città c'è la possibilità, ci sono mense per i poveri, cioè, quindi, quello che si diceva. E ecco, appunto, il principio è proprio questo qui. Cioè, lei dice di vedere il rischio di vedere intaccato il principio proprio di cui si sta discutendo, cioè che rubare, insomma, se si comincia a perché pensare... sennò poi chi ha bisogno, cioè a un certo punto anche il principio di avere un'abitazione, il diritto di avere un'abitazione è un diritto, cioè se uno ha figli piccoli. Io entro in una casa che trovo vuota e nessuno mi può fare niente. Il timore di Stefano e si parte da qui e si arriva chissà e dove. E non esiste l'analogia rispetto alla proporzione, no? La proporzione deve essere il valico che impedisce qualunque tipo di analogia estensiva. Comunque, ripeto, in questo caso stiamo parlando di una circostanza così attenuante da far venir meno il presupposto della pena detentiva, non di una condanna, ecco, per essere preciso. Esatto, cioè non è che la Cassazione ha detto potete entrare nei supermercati e rubare se avete fame. Esatto. Io ho un certo languorino per esempio in questo momento. Andiamo, forza. Esatto. Tutti all'esse lunga. Non è che posso per questo entrare. Va bene, Marco ci chiama da Milano. Marco, buongiorno. No, ma poi io lo prenderei anche come un monito per il prossimo campionato, che la Juventus si regoli. Attento! Marco, buongiorno. Marco. Buongiorno, buongiorno. Sempre più svegliate, signor Giannini. No. Vabbè, Marco, lei è juventino, Marco? Io volevo dire che secondo me, anche come dice Oscar, anche se bisogna valutare la casualità, nel senso, non la casualità, che uno ha fame e va a rubare, bisogna guardare perché l'ha fatto così, però io dico ci sono tante persone che soffrono di fame e preferiscono andare a rubare e fare lavori umili. Noi difendiamo, ha ragione, vedi Oscar che sono tutti così, poi il tenore In quel caso il giudice non deve giudicare tutti gli altri che, come dice lei, e sono esempi, ci mancherebbe altro, che non si fanno sfiorare dall'istinto, dalla tentazione, dal pessimo impulso con l'annabilissimo. E deve giudicare quel caso là e deve sforzarsi di giudicarlo in quanto quel caso, non in quanto caso generalista. Io adesso non voglio difendere il giudice, fare il giudice è uno dei mestieri più difficili e complicati della vita, io infatti non li invidio, perché da una norma generale loro la devono applicare a un caso iper particolare e, come si vede, è molto complicato perché ci si espone anche a incomprensione totale. Comunque, caro Oscar, tra qualche minuto, poi continua a chiamarci l'ascoltatore, avremo ospite il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, perché ne abbiamo parlato di questa cosa del reddito minimo di cittadinanza. Per Gramellini è un paragone a questa sentenza, questo no, è tirato per i capelli, però noi ne parleremo, perché a Napoli lo vogliono fare. È sotto elezioni, sì, sotto elezioni. Sul Mattino di Napoli c'è una fortissima polemica contro De Magistris, spiegaci i soldi. Comunque gli chiederemo. Glielo chiederemo tra pochissimo. State con noi, tra poco il sindaco di Napoli. Siamo qui, caro Oscar. Eccoci qua. Eccoci 41 qua. Minuti. Allora, era lì da un po' Franco da Firenze, al quale darei la parola. Franco, buongiorno. Buongiorno. Prima di tutto siete molto bravi, ma questo non c'è. Grazie. Io vorrei dire questo, che con la merce in scadenza che i supermercati magari buttano via, potrebbero fare una parte e darla a queste persone. Ecco, ma guardi, lei Franco, no, ma pone un punto, il dito su un punto fondamentale. Molti lo fanno, alcune catene alcune lo fanno. Ma effettivamente con banca etica e con altri soggetti. Ma Oscar, ci sono tantissime quantità di merci che vengono buttate via e qui stiamo a parlare di un paradosso, un processo per 4 euro. Quella che scade domani, oggi potrebbero... regalarla, insomma, agli indigenti. Sì, ha ragione. In moltissime città, e ripeto, diverse catene di grande distribuzione, anche meno note, quelle più diffuse territorialmente, lo fanno. E dovremmo, secondo me, anche noi singoli consumatori nelle famiglie, no? Pensare a qualcosa di simile, perché a molti di noi capita di avere un sovrappiù, no? Ecco, che non utilizziamo. Bravo Franco, una voce di solidarietà. Sì. Non lo so, io che sono per il diritto di proprietà, ripeto, credo che si possa distinguere. Sì. Adesso io non ho gli elementi, come non li abbiamo nessuno di noi, questo singolo caso. Quello che stiamo semplicemente dicendo è, cari ascoltatori, un minimo di comprensione. Un minimo, perché ci sono dei casi nei quali la regola generale ferrea, che va rispettata se no non c'è più civiltà, va però contemperata con alcuni bisogni primari. Tutto qui, io questo dico. Esatto. Stiamo commentando la vicenda del senza tetto ucraino condannato a 6 mesi per aver rubato rubato due pezzi di formaggio e un pacchetto di Wurstel. Fino in Cassazione, no, pensi quanto ci è costato a tutti questa cosa. Vabbè. Allora dico al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che ci ascolta. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Perché magari anche si è fatto un'idea su questo, anche perché sa, oggi Gramellini dice che questa sentenza anticipa il reddito di cittadinanza. Su questo magari si può discutere, per dire che in un paese civile non si può morire di fame. Lei si è fatto un'idea, anche da ex magistrato, insomma, su questa vicenda. Ma mi sembra una sentenza assolutamente condivisibile, pur non conoscendo gli atti. Ho ascoltato la parte finale del vostro discorso, per esempio nella nostra città si fa molto nel restituire alle persone indigenti alimenti che altrimenti vengono gettati nella spazzatura, addirittura farmaci, e è andato benissimo anche con gli indumenti, sono raccolti tantissimi indumenti e anche tantissime risorse economiche. Io credo che un paese civile deve garantire il diritto all'acqua, al cibo, il diritto alla casa a tutti, altrimenti è un paese dove ci sono delle disuguaglianze inaccettabili, un'ingiustizia sociale non più tollerabile. Anche il diritto alla casa, sì. Qua Oscar so che sobbalza, lo sento. No, sobbalza. Un conto è l'housing sociale per chi ha bassissimo reddito, sì. Di questo stiamo parlando, e questo le città non hanno abbastanza soldi per farlo, però in definitiva è il vecchio modello dell'edilizia popolare dai tempi di Fanfani a oggi, quindi anche questo rientra a dovere, e naturalmente significa essere quasi nell'impossibilità di darla a chiunque non ce l'abbia, però è uno dei fini delle politiche sociali, questo certo. Però sindaco, c'è una grande polemica perché insomma la sua giunta ha approvato la delibera con la quale si introduce il reddito minimo cittadino. Adesso ci spiegherà con che soldi e con quale, ma intanto a quanto ammonterebbe, da quanto partirebbe, chi potrebbe averlo? Ma innanzitutto la premessa di questo è il risanamento dei conti che abbiamo messo in atto, è anche una lotta all'evasione particolarmente efficace, che ci ha consentito di mettere in atto in questi anni una serie di misure, da ultimo il reddito minimo di cittadinanza, che dovrebbe orientarsi sui 600 euro mensili. Ci vogliono alcune condizioni: la maggiore età, ovviamente un reddito che non c'è, e la residenza, questo vale sia per gli italiani ma anche per tutti quelli che abitano nella nostra città, da almeno 24 mesi, e quello poi anche di firmare anche stranieri dunque anche stranieri, anche senza fissa dimora, e firmare un patto ovviamente di accompagnamento al lavoro, alle attività socialmente utili, e quindi a un inserimento importante nella città, quindi non semplicemente un supporto di tipo assistenzialistico. C'è un'assistenza ai più bisognosi, ma c'è anche un accompagnamento nell'inserimento sociale ed economico nella nostra città, e si accompagna ad altre misure che abbiamo messo in campo, politiche sociali dove non abbiamo tagliato, la refezione garantita nella nostra città anche ai poveri. Poi ricordiamo, nella nostra città abbiamo mantenuto anche l'impegno sull'acqua pubblica, che era un proposito di diritti essenziali. Oscar, tu sui conti, il sindaco adesso ha 600 euro mensili a chi non ha reddito, diciottenne, residente da meno 24 mesi, anche con stranieri, insomma... Io non faccio riferimento, perché ovviamente basta vedere le cronache dei giornali napoletani, le Thieri e la Valente sono insorti contro però questo riguarda la dialettica politica elettorale. Chiedo invece, signor Magistris, la lezione che viene dal passato, perché Bassolino nel 2004 introdusse pure lui un reddito di cittadinanza, erano 350 euro mensili per 3 anni, sottoposti ad alcune condizioni, arrabbiamento al mercato del lavoro. Quello era più un reddito minimo garantito, distinguiamo, reddito minimo garantito si dà a chi perde il lavoro e serve come ponte per riavviarlo, e se poi rifiuta però lo perde. Il reddito minimo di cittadinanza è un'altra cosa. Mi pare di aver capito da De Magistris che questa è una cosa con qualche elemento dell'uno e qualche elemento dell'altro. Però torniamo a Bassolino. Bassolino lo introduce e si parlava di più di 100.000, cioè presentarono domande più di 100.000 famiglie a Napoli. E alla fine andò una parte di questo sussidio solo a 18.000, e quindi poco più del 10% del totale, anzi 15% per essere precisi. Ci furono un mucchio di impugnative. Quando i giudici si pronunciarono, alla fine c'era già Caldoro, e Caldoro disse: signore, aboliamo sta norma, qua non ci sono i soldi, è stata presa una cosa elettorale, punto. Che cosa ci insegna questo precedente, se non a essere un po' cauti sotto elezioni, De Magistris? Ma ci insegna che da Bassolino, Valente e Lettieri, adesso governa a Napoli Luigi De Magistris, che è un'altra storia. Lei prima citava l'edilizia popolare. Noi oggi cominciamo per la prima volta nella storia di Napoli il trasferimento dei cittadini dalle vele ai nuovi alloggi popolari, che sono talmente belli che non sembrano alloggi popolari, questi sono fatti. Qui ci troviamo di fronte a un accompagnamento da una parte a soggetti che hanno perso il lavoro e che attraverso anche, come dicevo prima, un patto per uscire dall'illegalità vengono inseriti nell'economia reale che si è attivata nella città di Napoli in tanti comparti, come ad esempio quello turistico-culturale, e dall'altro ai giovani. Noi già abbiamo fatto questo in questi anni con le politiche giovanili, perché Napoli ha anche creato l'assessorato alle politiche giovanili. Noi diamo delle risorse economiche in alcuni casi, in altri affidiamo pezzi di patrimonio immobiliare della nostra città a start-up giovanili che decidono di investire a Napoli, e magari all'inizio non hanno risorse sufficienti, e noi con piccole risorse, non sono fondi, in mani che il comune non ha, però sono piccoli segnali che aiutano le persone che non hanno soldi. Sì. La ma lei sostiene che insomma questi 20, fino a 20 milioni si è fatto il calcolo, 15-20 esatto, milioni che costerebbe questo. 15-20 milioni sarebbero in bilancio, non in deficit? Ma no, assolutamente no, io prima ho dato un dato, perché dobbiamo parlare, ho detto all'inizio, di sanamento dei conti. Noi con la lotta all'evasione, solo nell'ultimo anno, noi abbiamo recuperato quasi 100 milioni di euro. Il risanamento dei conti significa che prima c'erano 1,5 miliardi di debito, 850 milioni di disavanzo, adesso abbiamo annullato il disavanzo. Tutto questo ci ha consentito di mettere risorse per i più poveri. Questa è la scelta che abbiamo fatto. Edilizia popolare, politiche sociali, refezione scolastica che a Napoli viene garantita ai bambini tutti, anche qualora ci dovesse stare un comportamento non regolare dei genitori. Cioè, è tutta un'attività che viene fatta in assenza di alcun accompagnamento da parte, lo vorrei ricordare, del governo centrale, che sulle politiche economico-finanziarie nei confronti dei comuni, come sapete, ha tagliato. E la cifra è quella, sindaco, per il reddito, 15-20 milioni? Dobbiamo vedere chi fa domanda. Noi stabiliamo questo, e poi va fatto anche in relazione ovviamente a un'iniziativa di legge popolare che noi abbiamo sottoscritto e in qualche modo incoraggiato anche nei confronti della regione Campania. Noi abbiamo stanziato questa cifra importante nel bilancio, andiamo a stanziare questa cifra importante nel bilancio 2016, poi come si diceva prima dipende dalle domande che noi vaglieremo con attenzione, cioè non è come quella storia di 20 anni fa che si citava prima, che poi ha creato anche delle situazioni sociali 12 anni fa. Sì. Senta, ma signor sindaco, dalla regione Campania fanno, insomma, indirettamente fanno scrivere ai giornali napoletani, ma insomma De Magistris sa che noi stiamo lavorando con il governo per un piano sulla povertà, e allora si porta avanti per i fatti suoi. Ma un'Italia in cui ogni sindaco di grande città, ogni regione, è successo in Puglia, in Basilicata, si inventa uno strumento proprio, chi di cittadinanza, chi di reddito minimo garantito, non è una specie di tuta di Arlecchino a colori invece di dare una risposta coordinata? Non era meglio passare per la regione e il governo, no? La ringrazio di questa domanda, perché della città dei mille colori io vi posso dire che sto chiudendo il mio primo mandato, 5 anni dove ho sentito solamente chiacchiere da parte dei governi nazionali e regionali, soprattutto i governi nazionali hanno solamente tagliato. In questi 5 anni tutto quello che abbiamo fatto nella nostra città sul piano sociale, sul piano economico e sul piano, diciamo, dell'immagine turistico-culturale e dei servizi è esclusivamente frutto di auto-organizzazione, autodeterminazione e risorse nostre. Se dovessimo aspettare le fuffe elettorali, dei patti per la campagna, delle passerelle del Presidente del Consiglio che scende a Napoli e tutto quello che vediamo ogni giorno, Napoli sarebbe già crollata, ma crollata sul piano sociale, economico e quant'altro. Questa è la vera novità. Ci esiste oggi una città, e io credo anche un mezzogiorno, che si è scocciato di stare col cappello in mano, si è scocciato di stare al guinzaglio di altri che semplicemente vogliono fare passerelle politiche o accordi e commissioni che a noi non piacciono, tipo pubblico-privato del vecchio, quello che si raccontava prima. Quindi qua è una nuova storia, è una storia di risorse utilizzate correttamente, di bilanci trasparenti, di una politica che ci mette la faccia con le mani pulite e che non fa conti con i Però posso dire una cosa, lei lo sa, no, ma adesso senza la casa lei lo sa meglio di me che rispetto, per esempio, aspetti, nei trasporti pubblici di Napoli, nelle ferrovie napoletane eccetera eccetera, cioè o lei collabora con la regione perché o altrimenti i servizi nella guerra tra comune e regione per i napoletani e la grande urbana restano a terra, perché ognuno dice la colpa è sua, la colpa non è un po' grazie, così. Grazie di questa domanda, perché esattamente quello che che mi sarei aspettato. Noi collaboriamo tantissimo col governo regionale, col governo nazionale, tant'è che grazie a questa collaborazione abbiamo la metropolitana in questo momento migliore del mondo dai premi che abbiamo avuto sulle nostre stazioni. Collaboriamo per quanto riguarda i finanziamenti europei che la città di Napoli ha speso fino all'ultimo centesimo, e ultimamente, grazie alla collaborazione col nuovo presidente della regione, finalmente arrivano dopo 4 anni le prime risorse anche sugli autobus su gomma. Come collaboriamo con le ferrovie italiane, tant'è che anche le stazioni della nostra città in questo momento sono buone, è l'aeroporto che meglio funziona in Italia a livello di partenza e arrivi negli ultimi tempi. Non mi sembra che parliamo di un sindaco che si chiude nel palazzo. Dà fastidio che io, oltre a collaborare con le istituzioni, faccio il sindaco di strada. Tra il popolo, sì. E questo credo che sia la novità, sì, rispetto alla politica. Noi dobbiamo concludere. Io ho una curiosità veloce: settimana prossima torna Gomorra, sa la serie che ha fatto? Lei la vedrà? È uno di quelli che dice queste serie non sono negative per le immagini della città e della regione, oppure è giusto che ci sia? A me piace molto la cultura sempre, quindi io sono curioso e vedo sempre tutto, cerco di guardare sempre tutto e poi mi faccio ovviamente le mie idee. Sono contro la censura e non do giudizi pregiudiziali nei confronti di nessuna opera d'arte, quindi vedrò Gomorra e poi farò le mie valutazioni. Come le sue valutazioni dopo. La ringraziamo, sindaco, ovviamente, sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Caro Oscar, qui celebrando l'Easter. Ecco, concludiamo su questa bella storia di successo animata da un grande organizzatore di uomini e di talento italiano. Bisogna dirlo. Claudio Ranieri, è vero. Capita all'estero, però in Italia non capita. Vabbè. Comunque, bravo Lester, bravo Claudio Ranieri, caro Oscar, noi ci ritroviamo domattina. Domani mattina, perfetto. A domani. Giannino, Alino, Giannino, Giannino, Alino, Giannino, GO!